senza un angelo custode, nel lieto fine della favola, di cuori infranti, di paure ed emozioni, di liti e di ragioni senza logica. Colorite dal peccato e falsi amori che ricordano il passato di mille inverni raccontati a perdifiato, di ingenuità diversi e di retorica. Io clandestino, figlio di un dio minore, sulle mie spalle porto le fatiche dell'amore, le luci fioche e le ombre del passato, di pianti e di miserie senza logica. Lasciati andare e le logica.